Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Allora a sto punto, se la pensate così, bloccate tutto, tutto. No, proprio, finiva, è finito. Il campionato è bello che è finito, punto. Chi è primo in classifica? L'Atalanta? Ecco, dategli il campionato all'Atalanta, vinta l'Atalanta. Dategli questo campionato all'Atalanta e finisce la storia. Dobbiamo convocare la banda. Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sai che ti dico, Carlo? Dimmi, Giovanni. Che secondo me Conte questa sera deve essere arrabbiato. Ha buttato via due punti. Sono d'accordo, anche se dopo il gol subito, ne parleremo a lungo, dopo il gol subito l'Inter è calata dopo un primo tempo e abbondante, molto buono secondo me. Sì, però se tu sei una squadra che punta allo scudetto e l'Inter è una squadra che punta allo scudetto, partite come queste le devi chiuderli, sì. Devi vincerle, come ha fatto del resto l'Atalanta tre giorni fa, sempre l'Olimpico contro la Lazio, perché c'è anche questo confronto. Cioè tre giorni fa l'Atalanta ha passeggiato l'Olimpico contro la Lazio, oggi l'Inter ha fatto la partita che adesso andremo a raccontare. Ma l'Atalanta in questo momento è ingiocabile per chiunque, non è neanche quasi un termine di paragone. 14 gol segnati in tre partite, è una squadra in questo momento assolutamente irresistibile, che non accetta confronti da nessuno. Fatto sta che l'Inter in superiorità numerica quella partita con la Lazio la doveva chiudere. Sì, ed è un tema interessante perché chiaramente questo era il primo vero test di questa stagione. Conte alla vigilia ieri aveva detto un anno fa qui una delle partite le abbiamo perse, una delle quattro perse in tutto il campionato, voglio vedere qualcosa di più, di meglio, anche a livello di testa e di maturità. E voglio sapere anche da voi che cosa ne pensate. 800 24 00 24 numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms, whatsapp anche vocali, numero verde che è aperto già adesso, quindi se volete chiamarvi e prenotare siamo qui pronti a raccogliere le vostre prenotazioni. Ovviamente parleremo di Lazio-Inter, parleremo dell'Atalanta, vi racconteremo insieme la partita tra Milan e Spezia da San Siro con il nostro Dario Ricci, avremo Varanato, mi parleremo del tour, del Giro d'Italia, parleremo del Roland Garros che oggi ha vissuto una giornata straordinaria fin qui per i colori azzurri, e vi parleremo anche di quello che sta succedendo intorno a Juventus-Napoli, la partita fantasma, le ultime, il Napoli non è partito e non partirà, ammesso che adesso avesse un qualunque senso immaginare di salire su un aereo per precipitarsi a Torino. Mezz'oretta fa la Lega Calcio con una lunga nota ha confermato che la partita si deve giocare perché c'è scritto, il protocollo prevede regole certe e non derogabili, e il regolamento che racconta come si possa arrivare al rinvio di gare per contagi plurimi al momento non si può applicare al caso del Napoli e non sussistono provvedimenti di autorità statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita. Che cosa significa? Significa che questa sera ore 20:45, a meno che non succeda qualcosa da qui a quel momento, la Juventus si presenterà in campo e probabilmente bisognerà attendere il tempo di regolamento e poi si tornerà tutti a casa a discutere per due settimane. Il calcio italiano partita fantasma farà una figura di merda euromondiale davanti agli occhi del mondo, adesso che tra l'altro, ma questo è un inciso, si tratta di anche di definire il futuro dei diritti televisivi. Vedi un po' tu cosa sono riuscito a combinare. Io voglio sapere anche da voi che cosa ne pensate. 800 24 00 24 di questa vicenda che da ieri pomeriggio tiene bloccato il calcio italiano intorno a quello che doveva essere, insieme a Lazio-Inter, il big match di questa domenica, partita che non si disputerà, e questo è chiaro a tutti, ma che avrà una lunga coda dal punto di vista della giustizia sportiva e forse non solo. Saluto Ciccio Colonnese, ciao Ciccio. Ciao. Buonasera a voi, buonasera a tutti voi. Tra qualche minuto ci raggiunge anche Pierluigi Pardo, fresco di telecronaca di Lazio-Inter. Ciccio, due punti persi e uno guadagnato dall'Inter. Due punti persi, onestamente, per come è andata la partita, penso di sì. Penso che l'Inter ce l'aveva un pugno, era, insomma, aveva un uomo in più. Queste partite, è vero che giocavi contro una Lazio, che sicuramente è una squadra forte, però insomma, c'è grande rammarico, perché insomma era una partita che ormai era indirizzata. L'Inter ha avuto la possibilità di chiuderla, insomma, di fare il secondo gol, non l'ha fatta, e poi dopo c'è stato questo, diciamo, questo pareggio di Milinko Savic. Sì, su errore di Brozovic, cioè di Brozovic, di Perisic difensivo, chiaro. Perisic si è fatto beccare alle spalle, non ha guardato l'uomo, era di spalle, proprio di spalle, non ha proprio visto. E, insomma, è stato un errore che è stato pagato a caro prezzo. Insomma, che ripeto, la partita ce l'aveva un pugno l'Inter e la Lazio era in grande difficoltà con la difesa rabberciata. C'è grande rammarico. Ma quando esci da partite così, esci con in testa che sei una squadra da scudetto o no? No, sì. Io penso che l'Inter è una squadra da scudetto. È chiaro che queste partite ti lasciano grande delusione, grande nervosismo, però insomma non scalfiscono le tue, non devono scalfire le tue idee, i tuoi obiettivi. È chiaro che non puoi perdere, diciamo, punti in questo modo, perché insomma va bene che l'inizio, però insomma, se anche se sulla carta vai, se ti dicono 1-1 a Roma con la Lazio ci può stare, però l'andamento della partita no, perché, però io sto dicendo per come era, no, per come era. Senti, ma abbiamo detto molte volte che l'Inter quest'anno è una grande novità in valore aggiunto dell'Inter, è una panchina molto profonda. Oggi ha inciso molto meno Conte dalla panchina con i cambi, mi è sembrato. Ma sai, inciso meno, la partita era in pugno, quando insomma poi nel momento in cui fatti i cambi, la partita, insomma la Lazio, forse in quel momento lì Conte sapeva che mentre insomma con la partita precedente era convintissimo di vincerla, rischiando qualcosa in più, oggi forse ha pensato che insomma dice vuol vedere che da vincerla poi rischiamo di perderla, e quindi ha fatto cambi un po' meno, voglio dirti, un po' più contenitivi rispetto alla partita con la Fiorentina, come insomma questo, forse volevi dire questo, insomma con la Fiorentina abbiamo visto che insomma l'Inter ha giocato con 3 punti, invece oggi insomma fatto dei cambi, però forse ha visto che durante la gara non ha voluto cambiare tanto lo schema della gara. Ha fatto quasi tutti i cambi ruolo su ruolo, Sensi, Gagliardini, Young, Perisic, e li ha fatti insieme, quindi diciamo Sensi più offensivo di Gagliardini, ma nello stesso momento Young più difensivo di Perisic. Poi va bene, ha tolto Vidal, 18-35 Luca Marelli, Varanatomi, perché oggi dal punto di vista arbitrale guida errati, c'è molto da discutere. Vidal si era appena preso il cartellino giallo dopo aver fatto espellere Immobile e Conte l'ha tolto immediatamente dentro Brozovic. Poi anche gli ultimi cambi, Sanchez, Lautaro, Ambroso, Skriniar, sono stati tutti cambi ruolo su ruolo. Ti è piaciuto Vidal trequartista? Vidal ha fatto un'ottima gara, sì. Vidal è un giocatore che sa giocare a calcio, sa mettersi in una giusta posizione lì, era molto, insomma, Vidal penso che sia stato il più positivo dei centrocampisti dell'Inter, quindi sicuramente insomma ho visto un po' sottotono Barella, onestamente, rispetto a Barella, diciamo faceva queste grosse ribaltamenti di fondo, un po' meno così positivo. Il centrocampo dell'Inter secondo me è stato il migliore, perché anche lo stesso Hakimi ha avuto ottime situazioni, ma a spazi non è stato devastante come è stata la partita precedente. Meno spazi, anche c'erano meno spazi, meno l'Inter spazio, faceva un po' fatica a ripartire quando rubava la palla. Ha cercato poco, ha giocato più sulla fascia sinistra che sulla parte destra, ha avuto questa sensazione che che doveva cercare di spingere di più dalla parte di Hakimi, che questo ragazzo c'è una velocità disarmante e doveva sfruttarlo un po' di più, ha giocato un po' più sulla parte sinistra. Questa è veramente... Io devo dirvi la verità, ho avuto la sensazione anche nel corso del primo tempo, per diversi tratti della partita, che l'Inter senza Brozovic, Sensi ed Eriksen, non dico tutti e tre insieme, uno dei tre facesse un po' fatica a costruire. Cioè, se tu metti Vidal trequartista e dietro gli metti Gagliardini e Barella, lasciando poi l'assalto sulle fasce, secondo me in fase di possesso tuo fai un po' fatica ad uscire in maniera pulita col pallone. È stata una sensazione. Sì, è vero, no, è una giusta riflessione la tua. È chiaro che questo è un centrocampo che ha visto oggi, è un centrocampo più muscolare, meno tecnico e più muscolare. Oggi l'Inter ha giocato con un centrocampo più fisico, ha giocato con un centrocampo più di corsa che di qualità, è indubbio, perché insomma di qualità, anche se sono grandi campioni, insomma, hanno caratteristiche diverse questi tre centrocampisti. E ha fatto così, e la scelta è un allenatore per una questione di equilibrio, cioè tu secondo per me reggere... l'ha fatto per cercare di reggere. Sì, sì. Vai Ciccio, ti abbiamo perso. Hai detto, secondo me ha fatto questa scelta per cercare di chiudere un po' le linee di passaggio della Lazio, che la Lazio era molto brava a giocare tra le linee, invece ha messo tre giocatori più bravi a essere stretti tra di loro e non lasciare giocare la Lazio liberamente. Però, non è vero che agli allenatori piacciono i 5 a 4 e i 4 a 3. Conte ha detto un po' una mezza bugia ieri. L'ha detto tutto intero. Penso di sì, perché Conte insomma ci ha abituato a far sì che le sue squadre erano più squadre dal punto di vista attentissime dal punto di vista difensivo. Quindi presumo che ha detto una mezza bugia. Insomma, le squadre di Conte ci hanno sempre abituato a questa grande difesa e poi sicuramente a queste grandi velocità in fase di ripartenza, però insomma la difesa è sempre stata l'arma da sinistra, l'anno scorso è stata la migliore difesa. Sì, fondamentalmente gli allenatori inseguono un po' tutti l'equilibrio. Grazie Ciccio. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie a Ciccio Colonnese. 800 24 00 24. Voglio sapere da voi che cosa pensate del caos di Juventus-Napoli. Allora, il Napoli non è partito e non partirà. La Lega conferma che alle 20.45 si deve giocare perché così impongono le regole. Il Ministero della Salute dice che è competenza dell'ASL, il Ministro della Salute dice che si parla troppo poco di scuola e troppo di calcio, ha parlato anche il capo dei presidi, se vi può interessare, ma no, insomma in questo dibattito contesto che attraversa il paese. C'è già Luca dalla provincia di Milano. 800 24 00 24, traffico, e torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Tutti convocati. Intanto c'è un comunicato ufficiale del Napoli di 6 minuti fa. Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid, voce che era girata nelle ultime ore, è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani, così dice ufficialmente il Napoli. Luca dalla provincia di Milano. Luca, buonasera a tutti. Vai. Complimenti per la trasmissione. No, chiamo velocemente per la pantomima di questa sera di Juventus-Napoli. Io sono tifoso juventino, ma premetto che se dovessimo vincere realmente 3-0 a tavolino, sono punti che non vorrei. Stiamo parlando del nulla, secondo me. Il consenso dice la partita si deve rinviare, ci sono questioni cause di forza maggiore, la partita si rinvia, punto. Di fatto non ci sono cause di forza maggiore, esiste un protocollo, una normativa. Se una squadra o un'autorità locale decide di far rinviare una qualunque partita, allora andiamo avanti così e allora possiamo anche smettere di giocare. Non sono tre punti che non volerli, non volerli, non è bello vincere a tavolino, a pantomima indegna, quello che vuoi, tutto questo corretto. Però se non si fa così, allora ditemi voi come si fa a portare avanti il campionato. Io credo che cercheremo di capire e di spiegare anche che il tema dello 0-3 a tavolino è un tema periferico. Molto periferico. In questo momento in realtà in gioco c'è molto di più. e c'è di fatto la possibilità di portare a termine questa stagione, perché se crolla il protocollo con tutti i suoi equilibri è chiaro che diventa impossibile immaginare perché il Milan deve giocare con lo Spezia, perché ha giocato a Crotone, perché ha giocato in Europa League, perché ha giocato il Torino, perché ha giocato l'Atalanta, ha giocato l'Atalanta oggi, perché ha giocato lo stesso Genoa a Napoli settimana scorsa. E allora c'è il buon senso, forse c'è la brutta figura che stiamo facendo, certamente, ma ci sono le regole, i protocolli e tutto quello che è stato scritto. E poi c'è l'Atalanta. Da Lammers in area di rigore, vede anche la porta lì Lammers, doppio passo, un altro, poi che giocata di Lammers, mamma mia, celestiale giocata di Lammers, e partita chiusa 5-2. Io mi piacerebbe tantissimo, sarebbe qualcosa di straordinario, vincere un trofeo con l'Atalanta. È molto difficile perché sappiamo che la Serie A è un campionato molto competitivo, ma vediamo cosa può accadere. A me piace tantissimo come l'Atalanta sta affrontando questa stagione, perché non si vergogna a dire che pensa anche di poter vincere lo scudetto. A parte il fatto che è una grandissima squadra, lo dicono i numeri, lo dice quello che ci sta facendo vedere in campo. È successo anche oggi contro il Cagliari, 4 gol nel primo tempo, 5 alla fine, partita pressoché perfetta, anche se Gasperini ha detto che l'Atalanta ha dei margini di miglioramento, e ha ragione, ed è uno dei motivi per cui è una delle favorite per lo scudetto. Gianluca Savoldi, ciao. Ciao, ciao Giovanni. Ti fa un po' impressione da bergamasco nel cuore? Credo che tutti noi bergamaschi sicuramente stiamo godendoci, io poi sono bergamasco e anche tifoso talentino, credo che tutti stiamo godendoci un momento con la consapevolezza che sicuramente è un ciclo davvero straordinario, e quindi insomma va goduto, bisogna godersi fino in fondo. Poi chiaramente non bisogna mettere limiti alla provvidenza, in questo sicuramente sono d'accordo con te, sono d'accordo anche con Gasperini sul fatto che bisogna avere la consapevolezza che questa spensieratezza sì ci può portare a alzare sempre, può portare insomma l'Atalanta a alzare sempre ancora di più l'asticella, però insomma sempre con la consapevolezza che poi Gianluca, la consapevolezza in questo momento è che oggi, domenica 4 di ottobre, tra l'altro auguri a Radio 24 che compie un sacco di anni, tutti noi 21, al di là di questo la consapevolezza è che oggi 4 di ottobre 2020 l'Atalanta è una squadra italiana più forte. Guarda, io sono sincero, fino a questa mattina o fino ai giorni precedenti ero abbastanza così cauto sul fatto, perché comunque c'è secondo me un Inter fortissima, c'è sicuramente un Napoli che non tutti gli anni, a parte qualche magari anno che se trovo come l'anno scorso, magari è stato un anno un po' di transizione, però sono club che possono tutti gli anni lottare per lo scudetto. Però devo dire la verità, e qui ti do ragione, sul fatto che oggi, dopo aver visto, e ho appena spento la TV, ho visto Inter-Lazio, anche se ripeto c'è l'Inter che è in grande crescita e quest'anno deve avere una corazzata importante, però devo dire la verità che in questo momento non si può neanche nascondere, e hai ragione su questo, che l'Atalanta in questo momento è al pari delle altre. Non so quanto poi dopo la rosa sicuramente dell'Inter, ma anche della Juve e del Napoli possono alla lunga coi 5 cambi, certo, far valere qualcosa in più, però hai ragione sul fatto che in questo momento l'Atalanta non si può nascondere che sia la squadra che gioca meglio, e sicuramente del resto l'anno scorso, al di là del risultato finale, dove tra l'altro l'Atalanta è arrivata comunque vicino davvero alla vittoria dello scudetto, perché comunque ha pochi punti, quindi diciamo comunque è stata là fino alla fine, effettivamente l'indice di pericolosità offensiva indicava veramente un divario tra l'Atalanta e tutte le altre. Sì, l'Atalanta non è corta come rosa. No, assolutamente. Se pensi anche a quello che in questo momento non c'è. Oggi Gasperini ha buttato lì un mezzo paragone, senza ovviamente scivolare nella blasfemia, tra Lammers e Van Basten. tanta no, roba. No, io credo, ma sai, io l'avete sono... sentito? No, non l'ho sentito, ma tanta roba. Non l'ho sentito, ma... Poi si è corretto, ha parlato degli attaccanti olandesi di quell'epoca lì, molto eleganti, tecnicamente molto forti, però all'inizio lui nel non detto l'aveva detto, infatti poi si è fermato, Si è fermato in tempo. Credo che una cosa sia vera, e io lo dico da grande stimatore di Sartori, credo che davvero la capacità d'Atalanta sia stata quella di prendere anche dei giocatori spendendo poco il giusto e valorizzare la grande, quindi ci hanno visto lungo e poi con un allenatore bravissimo che è a ottimizzare il lavoro e quindi cercare di, diciamo, di ottimizzare il materiale che è a disposizione, però ritengo sempre che comunque, ripeto, non è che voglio fare quello con i piedi per terra, però ritengo sempre che una rosa dell'Inter per me quest'anno, riguardavo oggi, sì, ho visto Kolarov in panchina, no, una panchina mostruosa, Gianluca, però non possiamo dire né che l'Atalanta né che sia corta, perché comunque è sufficientemente profonda, tornerà Ilicic, non abbiamo ancora visto Miranchuk, e non possiamo dire che l'Atalanta non abbia qualità, perché ne ha un sacco. Che sia corta non è vero, però io intendevo dire che comunque ci sono tanti punti di domanda, certo. Per cui Ilicic in primis, che se l'Atalanta vuol puntare vince lo scudetto sicuramente deve recuperare. Bisogna vedere come risponde, come poi entra Miranchuk, bisognerebbe recuperare un Pessina, manca un'alternativa comunque a De Ron e magari Mojico e questi nuovi ragazzi che sono arrivati, che sicuramente avranno il tempo e modo di venire fuori, però insomma non sono alternative come quelle che oggi a Perisic aveva, che erano, per dire, D'Ambrosio e Young in panchina e Kolarov in tribuna, per dire, solo l'alternativa sia all'esterno sinistro. Ecco, cioè, sicuramente o la Juve magari in certi ruoli, per esempio gli attaccanti o il trequartista, piuttosto che i difensori, che ne ha secondo me 5, uno più forte dell'altro. È chiaro che in questo senso l'Atalanta ha un potenziale sicuramente a margine di crescita, però forse come esperienza e ci vuole, sappiamo, no, per arrivare poi fino in fondo a ottenere quel risultato lì, anche quell'esperienza di innamorare. Però sicuramente l'Atalanta è partita quest'anno, questo è innegabile, lo dice anche la classifica, è partita come non è mai partita negli altri anni, perché di solito l'Atalanta è venuta fuori sempre alla distanza. Sì, questa è una grande differenza, perché negli ultimi due anni l'Atalanta era partita ad handicap di fatto, poi dopo non è sufficiente giocare uno straordinario campionato dalla sesta alla 38esima se vuoi vincere lo scudetto, perché di questo stiamo parlando, perché il campionato è fatto di 38 giornate e le prime 5-6 valgono esattamente come le altre 32. Grazie Gianluca. Ciao. Grazie a voi, ciao. A prestissimo. Ciao, ciao, grazie Gianluca. Intanto Conte, le prime parole: abbiamo preso gol mentre stavamo dominando la partita, il gol ha tolto qualche certezza, dopo abbiamo ripreso a macinare gioco, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con il palo, Brozovic qualche istante prima dell'espulsione di Sensi, poi parleremo delle due espulsioni, una di Immobile e una di Sensi, ne parliamo alle 18.35 con Luca Marelli, continuiamo a lavorare, c'è soddisfazione, ha detto Conte, nel giocare così contro la Lazio. Emanuele dalla provincia di Ancona. Salve, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Sono 2-3 anni che vedo i sorteggi di Champions con lo Zenit o l'altra squadra di Mosca in prima fascia e poi capita il Real Madrid in seconda fascia. No, il Real era in prima, però. Perdonami, il Real Madrid era in prima fascia. No, l'anno scorso era in seconda fascia. Okay. E quest'anno c'è il Barcellona in seconda fascia creando un gruppone mostruoso. E però sono le regole, Emanuele, nel senso che le regole dicono che nell'urna delle teste di serie vanno le vincenti dei campionati, dei tornei che hanno il ranking UEFA più alto, più la vincente dell'Europa League, cioè per intenderci, se l'Inter avesse battuto Siviglia nella finale si sarebbe trovata in quell'urna. Io credo che in una competizione come la Champions League, che in questo momento è comunque molto costruita anche per dare delle garanzie, dare delle continuità ai grandi club, questo non sia sbagliato. Cioè, se tu sei espressione di un campionato che sta nei primi 5-6 posti per ranking UEFA, è giusto che vincendo il tuo campionato entri, diciamo, da protagonista nella Champions League, tanto poi i valori si disegneranno nel corso della prima fase e solitamente agli ottavi di finale arrivano le migliori. Altrimenti è raro perdere qualcuno per strada. Altrimenti saresti al mega torneo che magari quelli dell'ECA hanno in testa, cioè un torneo dove questi criteri non valgono e quindi lì effettivamente è il giardino di tutti i migliori senza possibilità di errore. Ci fermiamo per due minuti, poi apriamo la pagina dedicata a Juventus Napoli 800 24 00 24. convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, ci caliamo nel caos di Juventus-Napoli, 800-24-0024 per raccogliere i vostri pareri. Siamo in onda fino alle 19, cominciate a prenotarvi. Ho fatto prima il riassunto, lo rifaccio. La Lega Serie A ha confermato che la partita si deve giocare alle 20.45 perché così prevedono le norme calcistiche, protocollo e regolamenti della Lega stessa, e non ci sono al momento le condizioni, scrive in una nota la Lega, perché il Napoli possa chiedere il rinvio della gara. Il protocollo prevede regole certe e non derogabili. Il Napoli ancora negli ultimi minuti ha confermato che non partirà per Torino, ammesso che adesso avesse senso discutere di una partenza in extremis del Napoli. Ha confermato che non parte perché è stata la ASL a predisporre per i giocatori del Napoli la quarantena e dunque l'impossibilità di muoversi. Vi abbiamo detto delle parole del ministro Speranza, vi abbiamo detto di ciò che trapela dal Ministero della Salute, dalla Regione Campania. Saluto Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Ciao. Allora, aspetta perché proviamo a riprendere il collegamento con Antonio Giordano, che è in questo momento difficilmente comprensibile. È una situazione che questa sera partorirà una partita fantasma, a meno che qualcuno non riesca a trovare il modo di evitare che la Juventus si presenti in campo, ma non capisco neanche quale possa essere la scorciatoia. La Juventus deve presentarsi per regolamento, perché la partita, l'hai detto tu prima, no? Cioè, l'ennesimo comunicato della Lega, la partita esiste, la partita c'è. Se una squadra non si presenta, le conseguenze sono ben note, ed è come minimo lo 0-3 a tavolino, che non è questione di 0-3 a tavolino o di 3 punti in più, 3 punti in meno, questa polemica da tifosi, è questione di sopravvivenza di questo campionato. Guarda, ieri all'Atalanta c'è Antonio Giordano? Sì, no. credo sia arrivato. Ecco, eccoti. Ti sentiamo. Che clima c'è a Napoli, Antonio? Ma quello che puoi immaginare, si cerca di capire quello che può succedere, quali saranno gli sviluppi, chi ha ragione, se è la giustizia sportiva o quello che ha deciso l'ASL, che ha di fatto praticamente bloccato il Napoli vietandogli di partire per Torino attraverso una serie di comunicazioni con le quali avete avuto modo anche magari di prendere atto, e quindi il Napoli è stato impossibilitato a mettersi in viaggio verso Torino. Vigono due principi ora: quello della giustizia sportiva o quella di una giustizia con la quale non ci si può sottrarre in un periodo del genere, nel momento in cui la Campania anche per oggi vede crescere il numero dei contagiati. Ma questo, rispetto a tutto quello che possiamo dirci, rappresenta praticamente una divagazione dialettica, perché è chiaro che poi nel momento in cui si scenderà in campo per giocare una partita che non è più calcistica ma è normativa, varranno tutte le varie argomentazioni. Sì, ed è chiaramente, noi andremo avanti per settimane, per mesi, con questa partita. Io non escludo... anche al di fuori della giustizia sportiva, perché poi insomma tutti i passi sono disegnati. Ecco Antonio, però io credo che uno dei peccati d'origine sia che si era capito anche da un paio di giorni che De Laurentiis e il Napoli questa partita non volevano giocarla, e anche voi sul Corriere dello Sport l'avete ben ricostruito nella giornata di sabato, prima che scoppiasse poi il caso, la telefonata ad Agnelli eccetera. Cioè, c'è il rischio che tutto questo pregresso renda impossibile comprendere poi alla gente normale se davvero è stata l'ASL a fermare o se c'è stata, diciamo, un concorso di colpa. Onestamente, per me fa fede quello che dice l'ASL, poi tutto quello che posso supporre rientra nel campo delle ipotesi e delle interpretazioni più o meno libere, chiaro, no? Che si possono tranquillamente dare, ci mancherebbe. Però ci sono dei documenti che parlano chiaro, e nel momento in cui l'ASL ti proibisce di metterti in viaggio, io credo che tu sia responsabilmente richiamato a rispettare questa opt-out. È chiaro che questa è una partita che si porta appresso un pregresso che non è di questi giorni soltanto, perché il pregresso, appartiene già a Napoli-Genova e a tutto quello che è successo dopo e a tutto l'allarme che è scattato nel momento in cui lunedì il Genoa ha scoperto di avere 19 e poi mi sembra 22 positivi. Sì, siamo a 22, salvo aggiornamenti dell'ultima ora. Cioè, e credo che tutto questo abbia contribuito a mettere pressione sulla ASL, perché non si potesse ripetere eventualmente sì, Antonio, un però, contagio sono, un popolare. Questo è vero, però il precedente è questo. Guarda, nella pagina del Corriere dello Sport su cui scrivi c'è un box, no, che riguarda l'Atalanta sotto pezzo. E il collega Emanuele Gerboni scrive: la società ieri scoperta di un giocatore positivo, forse Toloi, giocatore, no? Uno dello staff, la società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate, punto. E non è che a Bergamo abbiano pochi problemi o ci sia stato problemi, non è che l'AS di Bergamo sia sotto pressione. No, per l'amor di Dio, ma come scrivevamo stamattina, ora il punto è capire, può quindi la ASL eventualmente sostituirsi ai protocolli? L'ha fatto, nel senso che ha impedito al Napoli di mettere. Poi è chiaro che ognuno può fare le deduzioni che ritiene più appropriate o più personali, però ci sono delle indicazioni che arrivano dall'autorità sanitaria locale e alle quali il Napoli non ha potuto sottrarsi, immagino. È anche vero che non c'è soltanto l'Atalanta, ci sono stati altri casi di altre società. Sì, oggi la Lega lo ricorda, il Milan che va a Crotone, il Genoa stesso che è andato a Napoli, il Torino. Questo è un fatto nuovo. Voglio dire, questo è un fatto nuovo che irrompe sullo scenario e l'irruzione non è dal mondo del calcio, non è all'interno del mondo del calcio, è dall'esterno. Antonio, ma cosa succede adesso? Perché abbiamo capito che il Napoli domani effettuerà i tamponi. Abbiamo letto, ma ti chiedo conferma, che l'idea sarebbe di andare tutti in ritiro nell'hotel che c'è vicino a Castel Volturno per poi potersi allenare lo stesso per 2 settimane, e che sarebbe un paradosso, Cioè io mi metto nei panni dell'Atalanta che manda i suoi in nazionale e torneranno a ridosso della vigilia della partita con il Napoli, che nel frattempo avrà avuto 2 settimane di allenamento in ritiro. Ma quello che succede è impossibile prevederlo. Intanto immagino che dobbiamo aspettare quello che deciderà il giudice sportivo alla luce del regolamento e di tutto il carteggio che credo sia la parte più semplice. Poi vedremo cosa succederà dopo. Poi vedremo cosa succederà dopo. Esatto. Appunto, ecco, quella è la più semplice. E via. Esatto. Immagino che dal punto di vista sportivo e anche giuridico la vita, ma tra virgolette intendo dire, ce la possa cambiare tutto quello che accadrà dopo. Perché come dicevi tu, sospetto che vivremo settimane, forse mesi di turbolenze giuridiche. Ma è vero che c'è quest'idea del Napoli di organizzare la settimana prossima così? È un'ipotesi, ma non credo che sia l'ipotesi più percorribile in questo momento. A questo punto tutto quello che fa fede, mi pare di capire, è quello che deciderà l'ASL e non più il Napoli. Quindi l'AS di Napoli può fermare il campionato, può determinare l'estromissione del Napoli dall'Europa League, può determinare tutte queste cose qui. Può indirizzare anche questo tipo di organizzazione che dovrebbe essere interna. Ma siamo veramente nella fattispecie, anche dal punto di vista giuridico, del tutto inedita, mi sembra di capire, nella quale tutti quanti noi andremo ad intrufolarci cercando di vedere quali siano gli sviluppi e quali poi siano le frontiere da un punto di vista prettamente sportivo e da un punto di vista anche legale. Grazie Antonio. Ciao Antonio. Grazie a voi. Ciao. Grazie ad Antonio Giordano. 800 24 00 24. Ci fermiamo, poi San Siro. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Intimissimi Uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Tutti convocati. 12 minuti all'inizio di Milan Spezia San Siro. Milan che in caso di vittoria può andare alla sosta prima in classifica insieme all'Atalanta, e sarebbe, se vogliamo, una classifica abbastanza inedita negli ultimi anni, per quello che si è visto, soprattutto per il momento che ha attraversato a lungo il Milan. Andiamo a San Siro al nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Buonasera, buonasera. Ciao, ragazzi. Allora, se ci dai le formazioni. Eccole qua, praticamente confermate quella della vigilia, tranne una piccola variazione nello Spezia, ma partiamo dal Milan con Donnarumma in porta, difesa 4 da destra a sinistra con Calabria, Kier, Gabbia, Hernandez, Tonali e Krunic a centrocampo, e poi i tre a supporto di Colombo, centravanti dal primo minuto, Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Per quanto riguarda lo Spezia, Rafael in porta, poi difesa 4, Sala, Chabot, Erlich e Marchizza, poi a centrocampo Bartolomei, Ricci e Pobega, preferito a Maggiore da Italiano nell'undici titolare, il tridente offensivo con Verde, Galabinov, capocannoniere con tre reti, adesso lo è il Papu, ma insomma Galabinov straordinario inizio di stagione, e poi Ghiasi col numero 11. Mi sembra che Pioli abbia paura di che la fatica del Portogallo possa in qualche modo influire su questa partita. Sto facendo due conti, sono fuori Çalhanoğlu, Maldini, Castileco, Bennacer e che sì, no? Correggimi se sbaglio, Dario, rispetto alla formazione titolare. Di Europa League. Sì, è proprio così, sicuramente le fatiche, anche lo stress emotivo a quel punto va da considerare di quella sfida incredibile e fortunatamente ben conclusa per il Milan, hanno spinto l'allenatore a un robusto turnover, chiaramente riflettori puntati su Tonali, che fa il suo esordio a San Siro in maglia rossonera dal primo minuto, e poi si guarderà anche in panchina perché c'è a disposizione anche Auge, che insomma ultimo arrivato, ma che il biglietto da visita è sicuramente interessante per un Milan che poi guarda al campo ma guarda anche al mercato, perché gli affari Dalot e Kabak, il primo esterno difensivo in arrivo dal Manchester United e il secondo centrale turco dallo Schalke 04, sembrano davvero ormai addirittura d'arrivo. Invece non si hanno notizie di un vice Ibra. Che sarebbe fondamentale, perché oggi vai a giocare contro lo Spezia con il ragazzino Colombo, bravo, ci è simpatico a tutti quanti, un giovanissimo italiano, però il Milan il turnover non se lo può permettere, secondo me. Dario, notizie di un vice Ibra? No, mi sembra sparito dai radar. Eh sì, è proprio quello che manca, l'abbiamo visto, Libra, quello che è già abile arruolato nelle file rossonere, l'abbiamo visto sui social che sta giocando la sua partita contro il Covid e lo fa a forza di chilometri sul tapirulan, ma ovviamente davvero sì, Colombo ha già fatto intravedere tante buone cose, ma è difficile immaginarlo come primo ricambio di Zlatan, insomma. È vero pure che è un Milan che invece continua comunque a costruire intorno, no, al pivot d'attacco, perché poi la maturazione di Leao, Brahim Diaz, lo stesso Saelemaekers, che è un jolly che dove lo metti di solito rende bene, insomma si lavora molto intorno a quel perno centrale, che però è chiaro che quando c'è Ibra è un conto e quando non c'è è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra storia. Grazie Dario, stai ciao, lì dopo. Ovviamente racconteremo grazie insieme a te questa partita tra Milan e Spezia. 800 24 00 24. Gerardo, la provincia di Salerno. Sì, vai Gerardo. Buonasera, ciao, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo intervenire sulla partita che probabilmente verrà esclusa. Sì, che non ci sarà, la partita fantasma. Juve Napoli. D'altronde anche il ministro Speranza l'ha detto, io sono d'accordo con lui, anche perché Gattuso, che sembra risultato contagiato, potrebbe anche contagiare gli altri giocatori. Per cui io direi che è meglio che si rinvii, come sono state rinviate altre partite, o per la pioggia o per la nebbia eccetera, e verrà fatta un'altra giornata. Sì, ministro Speranza oggi ha detto tante cose e secondo me alcune anche in contraddizione una con l'altra, perché ha detto questo però ha anche detto che il CTS ha scritto dei protocolli che garantiscono che il campionato possa proseguire. Ora dentro quei protocolli c'è scritto che in caso di positività per un club professionistico di calcio si va in quarantena, il giorno della partita si fa un test molecolare titolare, chi è negativo gioca e poi si ritorna in quarantena. Quindi bisogna mettersi d'accordo. Ma a parte il fatto che non risulta Gattuso positivo attualmente. No, questa è stata smentita, lo abbiamo detto. I tamponi verranno effettuati domani. Giuseppe da Torino, Giuseppe. Salve, allora caos Juve-Napoli. Innanzitutto, sì, la posizione della ASE del Napoli mette l'Italia in fuorigioco rispetto a un protocollo UEFA seguito da tutti i campionati che permette di andare avanti. Questo protocollo è stato accettato da tutti. Davvero in Italia possiamo permetterci di metterci da soli fuori gioco anche rispetto alle competizioni europee? Faccio fatica a credere alla posizione vittimista del Napoli che subisce le decisioni della ASL, l'ASL Campania di De Luca. Ma davvero vogliamo credere che il Napoli sia in balia, il business del Napoli è in balia della ASL? Ultimo aspetto, lo dicevate adesso, la politica italiana che sembra quasi insofferente rispetto al calcio, continui paragoni tra calcio e scuola come se il calcio sia in contraddizione, in antitesi rispetto alla scuola. Il calcio è un business importante, il calcio muove con l'indotto tanto denaro, bene che sia così. A livello internazionale si è trovato un protocollo che sembra funzionare, io penso all'NBA, alla bolla, al fatto che siano stati in grado di portare avanti un business. In Italia il ministro è andato in contraddizione, ha detto ancora prima che la Lega in questo momento ha detto che la partita è confermata, il ministro dice mi risulta che la partita sia sospesa. Francamente, se in questo paese tante cose vanno male, è un bel cortocircuito. Allora Giuseppe, c'è tanta mediocrità. Allora Giuseppe, stai lì perché adesso c'è il GR, dopo il GR abbiamo delle notizie clamorose da darvi. Sempre su Juventus Napoli ci sarà anche Marco Bellinazzo e vi daremo l'ulteriore sviluppo di tutta questa vicenda. 800 24 00 24. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla nanomedicina ai materiali bioispirati, dalla blockchain alle tecnologie per la sostenibilità. Con Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, apriamo una finestra sul futuro. Tante notizie da tutto il mondo, commentate da alcuni dei nostri migliori scienziati. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Tutti convocati. Allora, undicesimo minuto, 0-0 Milan-Spezia. Andremo spesso nel corso di questa ora a San Siro dal nostro Dario Ricci per gli aggiornamenti su questa che è di fatto l'ultima gara di questa domenica. Poi ci sarà la sosta. Alle 20.45 non si giocherà Juventus-Napoli, anche se la Lega l'ha confermata ufficialmente con un comunicato a metà pomeriggio. Vi abbiamo detto delle parole riportate dal capo della comunicazione del Napoli sul fatto che il Napoli non partirà per Torino perché così ha disposto l'ASL. Saluto Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. E saluto anche Marco Bellinazzo, ciao Marco. Eccomi, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, aiutaci a fare chiarezza su quest'ultimo passaggio di cui ho parlato, e cioè la posizione del Napoli. La questione è molto complessa, ovviamente. Era arrivata sostanzialmente a un punto in cui la Lega riteneva che appunto l'ordinanza, il provvedimento, per meglio dire, della ASL, poi in realtà sono due realtà le ASL che stanno intervenendo su questa questione, sì, la 1 e la 2 di Napoli, che sarebbe un provvedimento generico paragonabile, per intenderci, a quello che ha ricevuto, non so, il Milan per le due positività di Duarte e Ibrahimovic, senza un preciso obbligo di isolamento e quindi senza un preciso divieto di trasferta. E per questo la Lega ha ritenuto comunque di confermare la partita, essendo dal punto di vista della stessa Lega prevalente il protocollo siglato dalla Lega, associazione privata, e vidimato dal CTS e quindi dal Ministero della Salute. Nel pomeriggio, quindi dopo il comunicato della Lega che confermava la partita, è arrivato un ulteriore provvedimento, un'ulteriore precisazione invece della ASL, che ha chiarito che il provvedimento non è un generico diciamo atto che fotografa la situazione imponendo una sorta di appunto isolamento fiduciario che andava a inserirsi nel protocollo, e quindi era un tipo di isolamento. Sì, il Napoli doveva partire, fare i tamponi e i negativi giocare. Ma è invece un divieto di spostamento per i giocatori contagiati, ma soprattutto per quelli che sono venuti in contatto con loro, e quindi una quarantena non soft ma hard, chiamiamola così, perché c'è una priorità legata alla salute pubblica, in quanto questi giocatori avrebbero avuto nell'ambito della trasferta tutta una serie di contatti tali da pregiudicare il bene superiore della salute pubblica. Allora, questo è di fatto, Marco, sì, Napoli la copertura chiesto, diciamo, giuridica alla posizione, sì, del Napoli. Sì, questo è l'ultimo provvedimento all'interno al quale Napoli ha chiesto di nuovo ufficialmente, con una mail che è partita pochi minuti fa alla PGC e alla Lega, di rinviare il match. Di fronte a un eventuale rifiuto, il Napoli non solo farà ricorso, insomma, contro il sicuro automatico 0-3 a tavolino, ma si riserva ovviamente anche una serie di azioni per il risarcimento dei danni, in quanto impossibilitato a rispettare diciamo l'obbligo giuridico sportivo, in quanto appunto in prevalente l'obbligo della ASL, che il stesso Ministero della Salute, e qui chiudiamo diciamo la parte legale, è prioritariamente competente a stabilire gli isolamenti, quindi è la ASL, quindi la regione, ad avere competenza in materia. Allora, questo è lo sviluppo degli ultimi minuti. Saluto anche Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, io provo a metterla così e ragioniamo insieme anche con Pierluigi Pardo. Lo 0-3 è l'ultimo dei problemi. Il tema è che se la posizione si può recepire quella che ci ha spiegato Marco Bellinazzo in questo momento, di fatto cade tutta l'impalcatura, cade il protocollo, cade tutto quello che è stato costruito nei mesi scorsi, che ha consentito ad esempio allo scorso campionato di arrivare fino in fondo, alle coppe, almeno per quanto riguarda le italiane, di arrivare fino in fondo e di far ripartire questa stagione. Quindi diciamo che la posta in palio è molto più dei tre punti dello 0-3 a tavolino su cui si stanno dividendo le due tifoserie. Andrea. Allora, il entrare adesso nell'ordine di tutta la parte legale, cavilli, ASL, protocolli, eccetera, significa ricominciare da capo, annoiare probabilmente anche chi ci ascolta. Sì, sì, lo lasciamo al giudice sportivo e agli avvocati. Perché già è abbastanza intricato. Io credo che debba fare un minimo passo indietro, che è legato a questo. Già lo scorso anno, quando si è deciso, la scorsa stagione che è appena terminata, di riprendere il campionato post lockdown, si era chiesto a più riprese di avere un senso dello sport, di credibilità, di aiutarsi, non cadere in polemiche, di cercare di collaborare il più possibile. Da dove nasce tutto questo caos e le polemiche, e sta esplodendo peraltro sui social network, ovviamente ormai è una battaglia nord-sud che rischia di sfociare come sempre diciamo in cose sgradevoli, che si ritiene o qualcuno ritiene che dietro questa scelta della ASL ci sia un interesse di parte del Napoli a non partecipare a questa trasferta, in quanto privo di alcuni giocatori e quindi non al massimo della condizione della sua rosa. Quindi questo è il... No, ci sia un concorso di colpa, come minimo. Colpa, tra virgolette, nell'origine della cosa. Si parte dalla convinzione che la società a Napoli sia, attraverso questa scelta della ASL, tra virgolette, diciamo, approfittando della situazione, oppure addirittura qualcuno ancora più malizioso va anche oltre. È chiaro, questo non è dimostrabile, non sono io a dirlo, diciamo, è però quello che porta inizialmente alla situazione di disagio. È ovvio che noi abbiamo visto già lo scorso anno che a volte addirittura scelte prese il giorno prima si modificavano il giorno dopo, partite che si dovevano giocare sono state rimandate, il ministro dello sport che litigava col ministro della salute, cioè c'è una confusione ovviamente enorme, perché sappiamo che il virus sin dalla scorsa stagione, non solo calcistica, ci ha portato a scelte, decreti, cambi continui e quindi a una confusione. All'interno di questa confusione si sperava, ci si chiedeva insomma di avere l'atteggiamento il più responsabile possibile. Tanto c'è una nota del ministro Spadafora, poi ve la leggo. Io credo che purtroppo gli interessi, tanto vabbè ovviamente il rispetto massimo della salute, quello non è in discussione, ma spesso e volentieri gli interessi del Gionio e degli altri fanno sì che ci siano, continuino polemiche continue. È ovvio che questa scelta del Napoli di non partire, della ASL Napoli di fermare il Napoli, come dicevi giustamente tu, fa crollare tutta l'impalcatura ed è il motivo per cui credo che Lega e FIGC andranno avanti con la loro richiesta di 0-3 a tavolino, proprio per non far crollare, per evitare che si torni indietro di 4 mesi. Adesso vi leggo la nota del ministro Spadafora. Pier, come se ne esce? Questo è il vero problema. Qui ci sono due ordini di temi. Uno è legato proprio alla diagnostica, nel senso che ne parlavamo l'altro giorno, credo, nella puntata di venerdì. È chiaro che quello che è successo a Genova in questi giorni non è da sottovalutare, no? Perché magari tu hai una positività, due positività, e poi però si sviluppano nei giorni successivi, quindi in realtà ne hai molti di più che stanno covando il virus. Questo è un tema ovviamente molto molto importante, che riguarda proprio non soltanto i calciatori, ma riguarda tutti, riguarda pure eventualmente dei tamponi negativi che possono in qualche modo, dei fatti diventare positivi poi nei giorni successivi. Quindi c'è un tema di diagnostica che è importante, estremamente significativo. Che è l'aspetto fondamentale. È chiaro che se si comincia a derogare dal protocollo non se ne esce più. Secondo me il protocollo non esiste più, ragazzi. Adesso vi leggo cosa ha dettato come nota il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Facciamo così, abbiamo il traffico, facciamo 20 secondi da San Siro. Dario Ricci, aggiornamento di Milan Spezia. Dario, 20° di gioco, ancora sullo 0-0, poco da segnalare, una chiusura di Sala su Leao all'8° minuto, che era stato un bello spunto, un cross di Salamakers sul secondo palo, poi Diaz al 10° ha provato la conclusione troppo centrale, finora abbastanza dimesso Tonali nella posizione di regista, ma chiaramente sta prendendo le misure. Ultima segnalazione, ha iniziato a piovere abbondantemente da circa 5 minuti. 20° di gioco, 0-0 a San Siro tra Milan Spezia. Grazie Dario Ricci. Traffico, siamo in ritardo, mi scuso con i colleghi, poi andiamo avanti e vi riporto le parole del ministro Spadafora. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Tutti convocati. Sempre 0-0 Milan Spezia. Allora, siamo con Pierluigi Pardo, Andrea Di Caro, Marco Belinazzo. Vi leggo la nota del ministro Spadafora. E voglio sapere che cosa ne pensate. Al di là dell'introduzione, dice: è evidente che la situazione generale si è divenuta nelle ultime settimane più complessa, tanto da non lasciare immune neppure il mondo del calcio, nonostante le rigide regole adottate. Ed è per questo che, come è stato più volte chiarito sia nei verbali del CTS che nei DPCM, alle autorità sanitarie locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Il protocollo, diceva prima il ministro, ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentirne la ripartenza da tutti auspicata. Aspetta ora gli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sui ricorsi e così via. Sia però ben chiaro il mio richiamo a far prevalere l'interesse superiore della salute su qualsiasi altra logica o interesse di parte. Secondo me, con questa sera, però è la mia opinione, chiedo ad Andrea Di Caro, Marco Bellinazzo e Pierluigi Pardo, il protocollo come l'abbiamo inteso in questi mesi non esiste più. Andrea. È chiaro che Spadafora è un ministro, comunque non è che può dire no a quella che è una indicazione di un'ASL, quindi deve fare questo tipo di dichiarazione. E questo tipo di dichiarazione farebbe pensare al fatto che lo 0-3 a tavolino non venga dato, ma venga rimandata la partita. E il problema è che se tu rimandi questa partita, rimetti a un certo punto tutto il sistema, il calendario, alla, non dico alla mercé perché sarebbe una parola negativa, però al, non decide più il calcio più o meno su se stesso con, insieme appunto al, a un ministero, decidono tutte le altre regionali in base a, alle diverse indicazioni, e quindi francamente diventa un ternallotto. Cioè, allora il titolo è, te lo dico in un titolo, il titolo è l'AS di Napoli ferma il campionato, perché di fatto è così. No, ferma il Napoli e quindi ferma quella partita. No, ma se questa è la posizione, Pier. Sì, assolutamente. Quello di Spanafora, diciamo che è un endorsement al punto di vista del Napoli, alle motivazioni di ragione pubblica che Napoli ha, delle quali Napoli ha parlato in queste ore. E questo è, però poi il calcio deve trovare una sua strada. E aveva cercato di trovarla attraverso questo collo. Marco? Questo è indiscutibile. Se tu blocchi questo principio in qualsiasi situazione, appunto, ci sarà una ASL, ma ripeto, qui è la situazione imbarazzante, perché è chiaro che il tema della salute è. Allora, aspetta, che abbiamo problemi con le linee con Piero Gepardo. Marco? Aggiungo che ieri è successa anche un'analoga vicenda per una partita di Serie C che fa meno clamore, che Potenza Palermo. La ASL Lucana è intervenuta con le stesse motivazioni di quella di Napoli e la Lega Pro ha dovuto rinviare la partita, quindi il protocollo è già, diciamo, seppellito evidentemente. Qui c'è un problema, ripeto, cerchiamo di essere come scevri da qualsiasi condizionamento, è difficile perché la pressione dell'opinione pubblica è enorme in questo momento, ma è un problema di fonti giuridiche. Lo so che è una remissione di calcio, ma fonti giuridiche in questo momento sono queste: comandano le ASL, che hanno competenza dal punto di vista costituzionale in quanto a braccio armato, fate usare questa espressione, delle regioni per tutelare la salute pubblica, e le ASL possono disporre che il diritto speciale dei calciatori può avere applicazione, ma se aumentano i contagi non possono anche stabilire il contrario. Ed è quindi che in Francia sono tutti dei coglioni, perché hanno permesso al Paris Saint-Germain di giocare nonostante ci fossero 6-7 contagi, e in Francia i numeri dicono Francia, che non sono messi benissimo. Carlo, hanno sicuramente il triplo, il quadruplo dei contagi, il sistema costituzionale francese è diverso e non c'è la ripartizione di competenze che c'è nella nostra Costituzione tra Stato e Regioni. Per quello io, diciamo, suggerivo un atto di cautela nel rinviare questa partita, ma c'è bisogno, a questo punto è chiaro e evidente, dell'intervento del governo, perché altrimenti il campionato è finito, perché domani mattina si alzerà un'altra ASL, ma questo non vale soltanto per la Serie A. L'intervento del governo, perdonami Marco, c'è, nel senso che due ministri competenti di fatto oggi ci hanno spiegato che cosa pensano. Ministro della Salute Speranza e Ministro dello Sport Spadafora. Allora dovrebbero anche dire che lo sport in Italia con questo livello di contagi non può andare più avanti. Andrea? Magari io penso che stiamo parlando a braccio, perché chiaramente ci si evolve in base a quello che... Sì, ogni minuto cambia qualcosa. Un modo forse per uscirne è quello di andare ancora una volta a specificare il caso, cioè perché si sta rimandando questa partita, perché viene appunto per Napoli-Genova, cioè non è il fatto di avere un contagiato o due contagiati, ma si sono ritrovati in campo due squadre, una delle quali poi ne ha avuti 10, per cui c'è il dubbio, serio dubbio, che dell'altra squadra possano, forse stanno incubando, potrebbero incubare il virus più giocatori, perché se invece noi ci limitiamo al fatto che se tu hai 1/2 contagiati in squadra non parti, il campionato è finito, perché altre squadre già hanno giocato con un contagiato che è rimasto fuori, per cui a quel punto tu blocchi un'altra volta il campionato. Se invece ti basi esclusivamente sul fatto che c'è stata Napoli-Genova e quindi è quello il caso unico che quindi fa bloccare la partita del Napoli, forse riesci ancora poi ad andare un pizzico avanti, però resta comunque un fatto che tu dai alla ASL la possibilità, peraltro che l'ASL peraltro ha, di bloccare qualsiasi squadra. E allora torniamo al discorso iniziale, che è il più antipatico e il più scivoloso, cioè della credibilità. Pier, stavi dicendo? No, che è assolutamente così, è complicatissimo riuscire a trovare, stante la situazione che si è creata, un appiglio per riportare la cosa su un tema generale. Questa strada che propone Andrea è una strada giusta, nel senso che ne parlavamo anche venerdì, eravamo preoccupati, chiunque credo sia preoccupato dall'escalation di casi del Genoa, e chiunque credo voglia evitare un effetto domino dove il Genoa gioca col Napoli, poi pian piano vengono fuori i positivi del Napoli che gioca contro un'altra squadra, e qui dopo 10 giornate si siamo infettati tutti. Quindi questo, il tema è assolutamente serio e delicato, però deve essere fatta così. Se non arriva un approfondimento della direzione di quella che dice Andrea, siamo veramente di fronte a un'eccezione, a una deroga che arriva dopo aver firmato un protocollo da parte di tutte le società, che è un protocollo fondamentale per provare a portare avanti la stagione. Firmato non solo dalle società, perdonami, ma anche dal comitato tecnico scientifico, e di fatto dal governo col Ministero della Salute. Veramente, ragazzi, rifacciamo il lockdown, cioè la situazione è questa, non c'è molta alternativa, ve lo dico proprio col massimo del rispetto. Cioè, se stabiliamo il principio che comunque sia, di fronte alla situazione del rischio, con una ASL che interviene, si rimandi la partenza di una squadra, quindi non si giochi più, dopo un po' non gioca più nessuno. All'estero stanno applicando questo protocollo, che per me è anche molto, molto forte, perché 13 giocatori con un portiere, se entriamo poi nelle technicalities, sì, siamo al minimo sindacale per scendere il campo. Tu pensa, se hai 6-7 giocatori chiave, dal punto di vista tecnico, sto parlando sportivo, è chiaro che è una mostruosità. È stata fatta proprio perché siamo in emergenza, e il mondo del calcio, come la ristorazione che mette le mascherine, che mette il plexiglass, come i bar, come gli alberghi, tutti provano a sopravvivere e andare avanti in qualche modo. Nel momento nel quale si stabilisce una regola, però, poi se dopo 2 giorni si comincia a derogare, diventa complicato. Complicato gestire tutto. Allora, vai Pier, poi ci dobbiamo aggiornare. No, dico, al di là del fatto che poi, per carità, io sono preoccupato perché qui il Verde parlava a Bassetti l'altro giorno, dopo il caso del Genoa, qui c'è un problema vero di diagnostica, nel senso che noi, premesso che i tamponi sono la cosa migliore... Non facciamo i medici, no, e non facciamo gli scienziati, è chiaro che c'è un grosso problema complessivo fino al giorno in cui non ci diranno che c'è una cura o c'è un vaccino. Tutta l'imbarcatura del calcio e dello sport, di poter andare avanti, si basa sul fatto che tu fai dei tamponi che ti danno un risultato certo e che poi non ci saranno sorprese. Se arrivano le sorprese, cioè, tu potresti avere oggi una squadra di calcio che fa i tamponi, sono tutti negativi, in realtà 4-5 stanno incubando il virus. Abbiamo capito che da oggi di fatto lo sport si ferma, o giù di lì. Poi Andrea Di Caro propone una ricetta che probabilmente può essere la strada maestra per provare a uscire da questo caos. Allora, ci dobbiamo aggiornare, poi cambiamo argomenti. Io ringrazio Marco Bellinazzo, ciao Marco. Grazie, ciao Marco, a tutti. Presto. Ringrazio anche Andrea Di Caro, vi leggiamo domani sulla Gazzetta dello Sport. Pier, buonasera a tutti. Saluto anche te, che ci occupiamo di varie ed eventuali. Va bene, io vi ascolto. A domani. San Siro rapidissimo, Dario Ricci. 31esimo di gioco, ancora 0-0, momento importante perché si è infortunato Galabino, il centravanti dello Spezia, molto probabilmente, anzi certamente, un infortunio muscolare, così come ha segnalato il numero 9 bianconero uscendo dal campo. Spezia, che finora è stata anche la squadra che è andata più vicino al vantaggio, al 21esimo un'incursione sulla destra di Verde, il cross rasoterra a centro area, l'intervento di Calabria a cercare di salvare in calcio d'angolo, ma il pallone si stava infilando proprio nell'angolino basso alla destra di Donnarumma, che comunque con un balzo e con una bella manata ha deviato il pallone fuori dai pali. Quindi 32esimo di gioco, 0-0 a San Siro tra Milan e Spezia, quando entra Piccoli al posto di Galabino. Grazie Dario Ricci. Milan non straordinario in questa prima mezz'ora, ci fermiamo, torniamo a Varanatomi, poi Giro d'Italia e tennis. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Eccoci al consueto appuntamento con Vara Anatomy. Ciao Luca. Ciao. Ciao a tutti. Allora, abbiamo tante cose da dirci e dobbiamo andare rapidi. Partiamo da Lazio-Inter, guida arbitro Irrati al VAR. Isoliamo tre episodi. Il primo, un tocco di braccio di Parolo, 19esimo del secondo tempo, pallone che spiove. E di fatto Parolo, toccando il pallone col braccio, lo toglie dalla disponibilità di Barella. Siamo dentro l'area di rigore. Sì, guarda, l'immagine fissa condanna l'intervento del difensore Parolo. Ma nella dinamica, nel momento in cui il pallone tocca sul braccio, è il momento in cui Parolo stesso sposta gli occhi dal nulla, perché stava cercando dove era il pallone, al proprio braccio. Cioè è veramente casuale, è un contatto totalmente casuale. Poi espulsione di Immobile, 25esimo del secondo tempo, scaramuccia con Vidal e tentativo di schiaffo. Tentare di colpire un avversario. In questo caso il gesto era chiaramente una condotta violenta. Per fortuna non è riuscita. Non è che bisogna pensare che una condotta violenta si concretizzi solamente nel momento in cui colpisce in pieno l'avversario. In questo caso l'espulsione è corretta. E poi c'è l'espulsione a 4 minuti dalla fine di Sensi, che si prende con Patrick sulla solita contesa per un pallone uscito per accelerare la rimessa laterale. In questo caso, diciamo, Sensi allontana in maniera vigorosa il giocatore della Lazio. Sì, però io in questo caso invece sono totalmente in disaccordo con la decisione di guida e anche del VAR. Secondo me il VAR qua doveva intervenire, perché si tratta di quelle che vengono comunemente chiamate reciproche scorrettezze, che in realtà sono un comportamento antisportivo, e io non vedo nessuna violenza da parte nel gesto di Sensi. Abbiamo capito però che il VAR quest'anno, almeno in questa fase di stagione, interviene poco o nulla. No, però su questo c'è da discutere, perché io non vorrei che si vada da un estremo all'altro. E quest'anno non si sta intervenendo praticamente mai, praticamente non esiste, e questo non va bene comunque. Così come non andava bene che interventi troppo frequenti, allo stesso modo però bisogna trovare una via di mezzo. E sinceramente questo è uno di quegli episodi nei quali sarei intervenuto, perché non c'è una condotta violenta e a mio parere è un chiaro evidente errore. Sì, c'è anche un altro episodio che fa secondo me scattare un po' l'allarme. È di ieri sera, Udinese-Roma 0-1, c'è un contatto dentro l'area di rigore dell'Udinese, vittima Pellegrini. Abisso è l'arbitro, Maresca al VAR, Abisso lascia correre, poi tu guardi le immagini e il difensore dell'Udinese prende tutto tranne che il pallone, nel senso che prende Pellegrini. Allora, d'accordo la valutazione di campo, d'accordo che l'arbitro era lì e ipoteticamente ha visto tutto, ma ha visto qualcosa di sbagliato. Mi chiedo che cosa serva al VAR. Sì, no, e questo è proprio il problema. Anche secondo me ieri sera il Pellegrini ha subito un netto fallo, e tra l'altro Abisso era coperto nel momento del contatto, perciò a mio parere non ha visto assolutamente nulla, e questo è uno di quegli episodi che nel protocollo vengono definiti come perduti dall'attenzione dell'arbitro. Anche in questo caso a mio parere sarebbe dovuto intervenire, perché oggettivamente in quell'intervento non c'è assolutamente nulla di regolare. Avevamo visto anche un mezzo disastro in Benevento-Inter in settimana, poi gara finita 5-2 per l'Inter, e quindi di fatto del tutto irrilevante dal punto di vista agonistico del risultato, ma prestazione ampiamente insufficiente sia in campo che da parte del VAR. Benevento-Bologna oggi, risultato finale 1-0, cancellato gol del pareggio del Bologna, rete realizzata da Svanberg, intervento del VAR per un tocco di braccio del penultimo giocatore dei Felsinei prima che il pallone vada in porta. Allora, aiutaci, perché questa è una delle fattispecie di cui si è parlato in questa stagione evocando un cambiamento. Esattamente, è l'unica vera modifica che c'è stata. È stato introdotto l'addizione nell'immediatezza, e questo è uno di quei casi. È chiaro, il contatto col gomito del giocatore del Bologna è totalmente casuale, però il pallone arriva poi a Svanberg proprio su quest'ultimo tocco, e pertanto non poteva che essere annullato, nonostante il tocco sia completamente casuale. E quindi corretto l'annullamento del gol. A proposito di tocchi di braccio, ieri c'è stato un calcio di rigore di fatto chiamato dal VAR in Sassuolo-Crotone. In molti hanno visto delle analogie tra il tocco di mani del difensore del Crotone e il braccio di Bonucci in Juve-Sampdoria. Sono episodi totalmente differenti. Cioè, per esasperare, passatemi questo paragone, come dire che spaghetti e reginette sono la stessa pasta. Non è vero, sono pasta, sono paste lunghe, ma sono totalmente differenti. Ed è lo stesso concetto. A livello dinamico sono due episodi totalmente differenti. E se prendiamo il fermo immagine, come ho detto, anche Bonucci è inchiodato dal fermo immagine, ma nella dinamica non è mai calcio di rigore. Quello di ieri è completamente differente, sono due giocatori in corsa, il difendente si oppone al cross allargando molto il braccio, è il classico esempio di calcio di rigore causato da un braccio staccato dalla figura. Grazie Luca. Ciao. A voi, buon lavoro. Baranato mi torna settimana prossima, sempre nel consueto spazio delle 18.35. Adesso parliamo di Giro d'Italia, prima però rapidamente a San Siro da Dario Ricci per Milan Spezia. 42esimo di gioco in questo istante, risultato fisso sullo 0-0, un Milan che malgrado l'abbondante turnover sembra ancora intorpidito dalla complessa, a dir poco, trasferta vincente, pur vincente di Europa League in Portogallo. Davvero poco da segnalare, se non al 38esimo il cross di Diaz, uno comunque tra i più vivaci, dalla sinistra, il colpo di testa all'altezza dell'area piccola di Colombo, alto di poco. 42esimo e 30 secondi in questo istante a San Siro, piove sempre più copiosamente, seguiamo questo attacco però di Saelemaekers, il cross al centro, arriva Diaz alto sulla traversa, poteva fare sicuramente meglio l'ex attaccante del Real Madrid, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Giovanni, grazie a Dario Ricci. Piero Augusto Stagi, ciao. Ciao Piero. Ciao. Allora, raccontiamo la vittoria di Ulissi oggi nella seconda tappa del Giro, la Alcamo Agrigento, 149 km, due Gran Premi della Montagna ma di quarta categoria, poca roba insomma a livello di salite, però con un bel finale. Per intenderci, Ulissi ha dovuto battere un certo Peter Sagan per vincere questa tappa. Pier? Sì, e l'ha battuto due volte sostanzialmente, a un chilometro e mezzo quando lui si è posizionato dietro la ruota il compagno di squadra Valerio Conti, che hanno fatto veramente tutto giusto, hanno capito che bisognava stare davanti, cercare di non rimanere imbottigliati e soprattutto anticipare quelli che erano gli uomini più pericolosi, che appunto erano Peter Sagan e Nick Matthews, due uomini scattisti che avrebbero messo chiaramente in crisi Diego Luis. Invece lui li ha anticipati, addirittura è riuscito a cogliere l'attimo e a lasciarli dietro. Sagan poi è stato bravissimo a cercare una rimonta impossibile, ma ha perso nuovamente perché è arrivato con le gambe piene di acido lattico, ma Diego Rossi è stato chiaramente più lesto, più forte e più lucido in questa seconda tappa. Quindi in questo giro estremamente difficile e complicato sotto tutti i punti di vista, come potete immaginare, ma che me state parlando credo da tempo per la questione Covid, anche il giro non è così semplice da portare a Milano, ma ci proveranno gli organizzatori. Gli italiani stanno cercando di fare il meglio che possono, devo dire che in due tappe, ieri abbiamo visto Top Gun che ha veramente tramortito gli avversari con una prestazione superlativa e sontuosa, ma anche oggi Diego Ulissi e Valerio Conte hanno tenuto alto l'orgoglio italico del pedale, quindi due tappe, due vittorie italiane, maglia rosa ancora sulle spalle di Filippo Ganna e domani c'è l'Etna. Domani si va a scalare. Che può raccontare che cosa? Che sensazioni avete? E domani intanto vediamo, si misura tanto la febbre, e quindi Geraint Thomas, che ci ha messo molto bene, ha già distanziato tutti i diretti avversari in maniera anche abbastanza evidente, soprattutto il nostro Vincenzo Nibali, quindi cosa dobbiamo aspettare domani? Intanto di vedere un Nibali non tanto dietro, in fase diciamo di risalita, sperando in questa fatidica terza settimana. Di sicuro cambierà la maglia rosa. Filippo Ganna ha finito il ruolo di capitano della Ineos, si cambierà berrette, prenderà quello invece della spalla, l'uomo utile alla causa della Ineos, in questo caso di Geraint Thomas, che ha la possibilità di vestire immediatamente la maglia rosa già domani sera. Però c'è un ma, perché io dico attenzione a un ragazzo di 23 anni portoghese poco conosciuto, che si chiama João Almeida. Potrebbe essere la grande rivelazione di questo giro, domani sera potrebbe essere maglia rosa. João Almeida, ci segniamo il nome, sì. Carissimo caro. Grazie Piero Augusto. Ciao Piero. Grazie a voi. Ciao Carlo. Ciao Piero Augusto. Ciao, grazie Piero Augusto. Mi pare che il giro non passi dalla campagna, non ci siano arrivi o partenza dalla campagna, perché sai com'è che il protocollo del giro, cioè un positivo rimane in camera isolato ma tutti gli altri continuano a correre. In teoria, se si applica il nuovo ragionamento, un positivo ferma il giro, tutta la carovana. Allora andiamo a San Siro, ultimi secondi del primo tempo, Dario Ricci. Sì, siamo nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo, 0-0 ancora tra Milano e Spezia, e per i Liguri sta per essere battuto il terzo calcio d'angolo di questo primo tempo. Verde sul pallone, quel Verde che pochi istanti prima se l'è conquistato quest'angolo, concludendo con un bel destro in diagonale, un contropiede degli spezzini. Bravo Donnarumma a non farsi sorprendere sul primo palo e a deviare appunto in corner. Pochi istanti prima, partita praticamente che si è accesa in quest'ultimo minuto, Giovanni, pochi istanti prima infatti era stato Salamakers a sprecare una clamorosa occasione, bravissimo Calabria a recuperare, a strappare praticamente dalla linea di fondo un pallone, a crossarlo all'altezza del centro area per Salamakers, il destro del belga fuori misura e alto sulla traversa. Quindi una trentina di secondi alla fine di questo primo tempo, quando c'è Donnarumma che è pronto a rimettere dal fondo, risultato ancora di 0-0, un Milan che ha faticato parecchio a trovare gamba e misure, opaca la prova in questo primo tempo di Tonali, cui pure Pioli ha affidato le chiavi della regia, fumoso Leao, poco più consistente Diaz, volenteroso in avanti Colombo che ha avuto anche una buona occasione di testa, ma insomma poche palle per mettersi in luce al centro dell'attacco rossonero. Bene lo Spezia che, lo ricordiamo, intorno alla mezz'ora ha perso per infortunio il suo centravanti Calabino, sostituito da Piccoli, infortunio muscolare e tempi di recupero tutti da stabilire, ma che per esperienza mi sento di dire non saranno proprio brevissimi. Ancora qualche istante di gioco e Ricci che manovra nel cerchio del centrocampo, il tentativo proprio di Piccoli di lanciare in profondità, ancora attento Calabria anche in questa occasione, prova a rilanciare a sua volta su Leao, chiude Sala, chiudono i centrali dello Spezia, palla tra i piedi di Rafael, è davvero mai come in questo in serate di questo tipo i giocatori aspettano un tè caldo, perché come dicevamo dalla seconda metà del primo tempo ha cominciato a piovere abbondantemente e sensibile anche il calo della temperatura. Eccolo il triplice, anzi il duplice fischio di Serra alla fine del primo tempo, Milan 0 Spezia 0. Giovanni, grazie a Dario che continuerà a seguire Milan Spezia e la racconterà nel corso dei notiziari. Traffico, poi il tennis. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Intimissimi uomo. Boxer a 7,90€. Nei negozi e online. Vi presenta. Convocati. Guarda qui, guarda, è finita, qui. È finita, incredibile. Che giornata per il tennis italiano. Jannik Sinner nei quarti di finale di un torneo dello Slam all'esordio, non capitava dal 2005, quando c'era riuscito un certo Rafa Nadal, che sarà proprio il suo avversario nei quarti di finale, altro capolavoro del giocatore italiano. Eh sì, è stata fin qui una grande domenica, perché non soltanto Jannik Sinner ha battuto Zverev in 4 set e si è guadagnato il quarto di finale contro Nadal, ma anche Martina Trevisan ha battuto la Bertens, che è testa di serie numero 5, e i quarti li farà con la polacca Swiatek, che ha distrutto la numero 1 Halep, e quindi chissà che cosa ne verrà fuori. C'è in campo Lorenzo Sonego, ma è sotto 6-1-5-2 contro l'argentino Schwartzman. Saluto Vincenzo Martucci, altro che risorgimento del tennis italiano. Ciao, Vincenzo. Sì, veramente a inventarlo un titolo così ci voleva veramente un veggente. Sì, no, ovviamente meraviglioso Sinner, Sì, i prodomi c'erano tutti. L'anno scorso era già stato un anno straordinario. Sinner l'anno scorso, dimentichiamolo, un giocatore che era nato nei tornei satelliti e ha chiuso l'anno vincendo la Next Gen battendo De Minauro, cioè distruggendo De Minauro a Milano. E Sinner adesso anche qui ha fatto vedere dei progressi ancora superiori. Io sinceramente pensavo che contro un giocatore come Zverev sulla terra rossa, un giocatore che ha caratteristiche simili alle sue ma è più forte, è più accreditato eccetera, lui avesse dei problemi, cioè caratteristiche simili. Invece semplicemente ha comandato sempre lui, ha perso un set per un paio di distrazioni, ma obiettivamente non è, il punteggio, il risultato non è mai stato in discussione. E questo veramente è un ulteriore segnale di questo giocatore che, oltretutto, quello che sta a fare in campo tecnicamente, perché obiettivamente è impressionante come lui si è migliorato in tante cose, in tutto, se vogliamo, dal diritto al rovescio, il servizio, tutto. La cosa che più mi impressiona a me sono le reazioni, cioè in certi momenti praticamente non batte ciglio dopo le cose più strane che gli possono succedere, una palla che finisce poco fuori, una riga del suo avversario, lui sembra Borg, non reagisce, non è italiano. No, non è italiano, per fortuna invece lo è, ed è la seconda volta negli ultimi 70 anni che presentiamo due tennisti ai quarti di finale nel tabellone maschile e femminile, l'ultima volta 2011 Fognini, altrimenti si va indietro nei secoli dei secoli, come Vincenzo sa benissimo. Sì, nel 49, sì, dove comunque accanto a Cuccelli c'era la Ulstein, che in realtà è sposata, ma non Bossi, ma perché era sposato un italiano, ma lei non era italiana, era austriaca. Quindi è assolutamente impropria quella statistica. No, ma qui siamo davanti veramente a qualcosa di straordinario, perché anche la prestazione della Trevisan è qualcosa di fantastico. Questa ragazza che è alta 1,60 m, è il numero 159 del mondo, ha giocato per la prima volta in un tabellone dello Slam a gennaio agli Australian Open, compare qui dopo le qualificazioni a Roland Garros e gioca con una sicurezza, con una tranquillità, con un sorriso, perché la cosa bellissima di questa ragazza è che dopo tutti i problemi che ha avuto, come sappiamo, l'anoressia, 4 anni lontano dal tennis, problemi familiari vari, e lei, che non è un fenomeno di altezza, non è un fenomeno di potenza, non è un fenomeno neanche di tocco, riesce a fare tutto giusto contro un giocatore fatto e finita contro Bertens, che aveva battuto peraltro una veterana come Rani nella partita prima. Quindi veramente straordinaria, una ragazza che ha uno spirito fantastico, con questo spirito peraltro ha superato anche il fratello Matteo, che come qualità era anche superiore a lei, ma questa ragazza qui è straordinaria e veramente lo ha dimostrato oggi con una tenuta del campo incredibile, perché lei ha sostanzialmente un grandissimo dritto, ma obiettivamente tutto il resto va costruito, e poi anche ha avuto delle difficoltà immense, perché è stata raggiunta dalla sua avversaria, ha tenuto lo stesso, ha capito che doveva giocare più sul dritto, ha capito che doveva andare di più a rete. Beh, insomma, si è dovuta vincere più volte la partita che alla fine ha vinto. Sono storie belle queste da raccontare. Grazie Vincenzo Martucci. Ciao, ciao Vincenzo. Allora, noi ci fermiamo qui. Resta aperta la questione Juventus-Napoli, c'è il secondo tempo di Milan-Spezia da raccontare, parziale all'intervallo 0-0, la seguirà Dario Ricci da San Siro nel corso dei notiziari di Radio 24. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato, Pietro Lacorte in regia. L'appuntamento con tutti i convocati con Carlo è domani dopo il GR delle 14, mentre noi ci risentiamo domenica prossima alle 17. Ciao, ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.